Perché dall'altra parte del mondo c'è una piccola isola, Christmas Island, grande più di Lampedusa, 7 volte circa. È sulla costa nord australiana, in realtà è ben più distante dalla costa australiana di quanto non lo sia dalla costa indonesiana. Ci sono insomma tutti i presupposti per chiamarla la Lampedusa agli antipodi. Me dice nel desaparecido, fantasma che nunca sta. E perché ne parliamo quest'oggi? Perché il governo laburista australiano ha siglato pochi giorni, poche settimane fa, un accordo col governo della Papua Guinea per sostanzialmente esternalizzare le procedure di richiesta d'asilo dei tanti migranti che quasi quotidianamente tentano lo sbarco sulle coste australiane e irrimediabilmente finiscono in quest'isola, che è proprio lì lungo la rotta. E in base a questa nuova legge, che è una legge che durerà un anno ed è passibile, suscettibile anche di essere rivista, questa legge è stata siglata dal leader laburista, vi dicevo, Kevin Rudd, che è quello che ha sostituito alla guida dell'esecutivo Julia Gillard, e l'omologo Peter O'Neill. Di questo accordo se ne parlava già l'agosto dell'anno scorso e noi fra l'altro ne demmo notizie, però poi a metà luglio circa è stato siglato. E come funziona? Funziona che tutti i migranti, in particolare i richiedenti asilo che sbarcano su quest'isola, vengono poi trasferiti sull'isola di Manus, fra le altre, in Papua Nuova Guinea, dove lì vengono poi espletate le procedure di richiesta d'asilo. Il punto qual è? E il punto è che Papua Nuova Guinea, oltre ad essere balzata agli onori della cronaca negli ultimi anni anche per violenze, per scontri tribali, per una generale pericolosità sociale, non garantisce nei suoi centri di identificazione e di accoglienza quelli che sono gli standard universalmente riconosciuti dalle associazioni. E in particolare ha destato scalpore l'intervista rilasciata dall'ex direttore della sicurezza di uno di questi centri, che qualche settimana fa avrebbe denunciato condizioni terribili a cui vengono sottoposti i migranti, anche violenze e stupri. Me dice nel desaparecido, fantasma che nunca sta. Me dice nel desagradecido. Ad aggiungere pepe a questo dossier c'è una massiccia campagna mediatica che il governo australiano sta facendo. Se sbirciate sul nostro profilo Facebook, andate a vedere appunto la foto e la campagna, che sostanzialmente recita: se venite qui con un barcone senza il visto, non vi stabilirete in Australia. Questa campagna è rivolta non solo ai cittadini australiani o a chi è già espatriato, chi già vive in Australia e magari ha contatti con altri migranti e li chiama per farli venire, ma anche oltreoceano, quindi anche nei paesi d'origine, a partire dall'Indonesia, dai quali partono appunto questi migranti. Il costo di questa campagna è $37 milioni e l'opposizione in Australia è insorta, perché ha detto: beh, insomma, fate questa campagna costosissima quando il 7 settembre ci sono le elezioni. Insomma, dicevo, altro motivo che ha aggiunto pepe a questo caldo dossier. Tra pochi minuti vi porto a Sydney, perché abbiamo raggiunto la responsabile di Amnesty International lì, però prima, siccome l'Australia ha una lunga storia di immigrazione, è un po' l'ossatura proprio di quel paese, sia regolare che irregolare, allora andiamo a ricapitolare questa storia. 320 le imbarcazioni approdate, 18.000 i migranti, più di 1.000 i morti durante l'attraversamento. Questo è il bilancio degli sbarchi australiani degli ultimi 3 anni. Solo dall'inizio del 2013 in 15.000 hanno cercato asilo sull'isola, mentre il governo ha fissato a 20.000 il limite per i visti da rifugiato, che si prevede saliranno a 27.000 nei prossimi anni. Ma come si è evoluta l'immigrazione australiana dal secolo scorso ad oggi? Tra il 1947 e il 1971, il centro di accoglienza di Bonegilla, nel sud-est australiano, diede casa a 300.000 sfollati della Seconda Guerra Mondiale, provenienti da 50 diversi paesi. Nel 1961 la popolazione australiana toccò, grazie agli alti tassi di immigrazione, i 10 milioni e mezzo di abitanti, con un incremento pari al 43% rispetto ai 7,3 milioni del 1945. Negli anni 70 si cercò di ridurre le entrate per permettere all'economia australiana di assorbire al meglio il flusso di arrivi e dai 185.000 profughi nel 1969-70 si scese a quasi 53.000 nel biennio 75-76. Dal punto di vista umanitario, l'Australia fu anche meta dei rifugiati della guerra del Vietnam, 155.000, di migliaia di studenti cinesi in seguito alle proteste di piazza Tiananmen e nel 1999 di 4.000 kosovari. Dal 1945 sono stati rilasciati 7 milioni di visti. Il 45% degli australiani è nato oltreoceano o ha almeno un antenato non australiano. L'Australia si conferma quindi come il paese con la maggior diversità culturale al mondo. E come avete sentito, ci sono tutti i presupposti per fare anche analogie con quello che sta avvenendo e che avviene ormai da tempo a Lampedusa. E alcuni ascoltatori al 349-238-6666, c'è chi punta il dito contro Malta e contro l'Unione Europea. Andrea da Bologna, ad esempio, dice: è possibile che Malta possa comportarsi in questo modo e l'Unione Europea non prenda provvedimenti? Ma la mia opinione, ripeto, è un'opinione, che in generale Spagna, Italia e Grecia, cioè i paesi più esposti a quella che è l'immigrazione irregolare, sono da sempre stati lasciati soli dall'Unione Europea, e quella famosa circolare Dublino 2 è quella che dice che è il paese in cui il migrante per la prima volta viene identificato, dove tocca terra, che deve gestire la pratica. Vuol dire fondamentalmente quello che è un problema che dovrebbe avere una gestione europea viene lasciato ai paesi di affaccio, e quindi vengono lasciati soli a fronteggiare questo problema. La questione di Malta è l'ennesima conferma che l'Italia è stata, secondo me, lasciata da sola da parte dell'Unione Europea. E poi un altro ascoltatore, Piero, dice: ma perché si usa la parola migrante al posto di immigrati clandestini? E poi dice: neolingua orwelliana avanza a grandi passi. Non capisco cosa vuole dire, lo dico subito perché. Perché l'immigrato è clandestino quando viene riconosciuta, cioè quando entra nel paese e quando è stato stabilito che non aveva titolo a una protezione umanitaria. Per cui gli immigrati di cui stiamo parlando noi sono per la maggior parte richiedenti asilo, perché quelli che arrivano nell'isola Christmas Island arrivano ad esempio dall'Afghanistan o dallo Sri Lanka, quindi fuggono da guerre, quindi molto ragionevolmente dopo la loro identificazione sono persone che hanno diritto a chiedere l'asilo, quindi hanno diritto a una protezione umanitaria, quindi non sono clandestini. Tutto questo per ristabilire anche che la semantica e il lessico è importante. Poi vado su Facebook, dove c'erano altri due o tre commenti interessanti. Dunque, ho perso la pagina, eccolo qua. Allora, un ascoltatore dice: vabbè, per chi onestamente cerca un lavoro in Australia non va proprio bene. Il problema è che molti di questi non cercano un lavoro, fuggono da guerra o da situazioni pericolose o disagiate. Non tutti, però molti di loro. Un altro ascoltatore invece lo rincalza dicendo: beh, bisognerebbe chiederlo alla Papua Nuova Guinea. Ebbene, la questione è scottante politicamente anche all'interno del paese, perché l'opposizione lì in Papua Nuova Guinea ha detto che questo accordo non solo è contrario alla Costituzione del paese, ma anche alla Convenzione dei diritti umani che fra l'altro il paese avrebbe siglato. Abbiamo raggiunto Sara Saleh di Amnesty International, al quale innanzitutto ho chiesto ovviamente qual è la posizione ufficiale di Amnesty a seguito di questo nuovo accordo. Absolutely. Amnesty International is really disappointed that Australia has chosen this path. We think that this is basically... Allora, Sara Saleh, che è appunto portavoce di Amnesty International Australia, dice: Amnesty è molto insoddisfatta di questo accordo tra Australia e Papua Nuova Guinea. Riteniamo sia profondamente sbagliato dirottare fuori dal paese richiedenti asilo e persone che per ragioni economiche o morali non hanno altro posto in cui andare. Il problema, dice, dell'accordo che prevede di trattare i migranti in Papua Nuova Guinea è che questa dovrebbe essere una responsabilità dell'Australia. Dice: per noi è inammissibile delegare il trattamento e la difesa dei diritti umani di queste persone a una nazione che, paragonata alla nostra, non ha le infrastrutture, le risorse materiali e sanitarie, i supporti psicologici adeguati per prendersi cura di uomini e donne e bambini traumatizzati, torturati, perseguitati e che fungono da condizioni devastanti. È abbastanza lampante, chiude Sara Saleh, che debba essere l'Australia ad occuparsi di questo problema. Allora, uno degli ascoltatori sollecitava precisione quando ho detto che vi sarebbero violenze nei centri di accoglienza in Papua Nuova Guinea. Dice: violenze stupide da parte di altri migranti, meglio specificarlo. Se è vero, giusto agire per evitarlo, ma per il resto l'approccio australiano è di buon senso, dice questo ascoltatore. Non solo, Papua Nuova Guinea non è esattamente un paese molto tranquillo. Il 70% delle donne di Papua Nuova Guinea nella loro vita viene assalito fisicamente o viene violentato. E poi le associazioni di protezione dei diritti umani dicono che le migranti non sono abbastanza protette nei centri di accoglienza. Ancora un altro ascoltatore: il termine zona di guerra può essere piuttosto ambiguo, secondo certe definizioni tutto l'Afghanistan o la Somalia potrebbero riversarsi da noi o in Australia. È per questo che l'ufficio dei rifugiati delle Nazioni Unite compie uno screening, fa un'intervista e cerca di identificare esattamente dove viene il migrante per capire se ha diritto o meno a una protezione. Nessun luogo è lontano. E nella settimana appena trascorsa, mentre i rapporti tra Stati Uniti e Russia si sono raffreddati, soprattutto per il caso Snowden, e quindi c'è stato questo improvviso gelo da parte di Obama che ha sospeso una serie di incontri, un altro evento che è avvenuto nella Federazione Russa ha fatto pronunciare Obama, perché in un talk show televisivo ha detto: non mi stanno particolarmente simpatici quei regimi che discriminano gli uomini sessuali. Proprio di questo ci siamo occupati nella settimana appena trascorsa, cioè di una nuova legge che condanna manifestazioni sessuali contrarie alla tradizione in Russia. Russia будет свободной. Russia учит нас теперь морали. Те, кого не выбирали, учит нас теперь морали. Те, кого не выбирали. E quello che avete sentito era l'ultimo Gay Pride a San Pietroburgo, era il primo maggio del 2013. Chissà se è stato l'ultimo, così come abbiamo potuto ascoltarlo o vederlo. Perché? Perché un giro di vite un mese e mezzo fa è stato dato da Vladimir Putin, che ha approvato una legge che da molti è stata definita un sonoro schiaffo ai diritti civili più elementari, una legge che va a punire qualsiasi manifestazione contraria alla sessualità tradizionale che possa influenzare i minori. Leggi baciarsi in pubblico, ad esempio, oppure tenersi per mano, o addirittura portare una bandiera con l'arcobaleno, perché è un chiaro simbolo portato avanti dalla comunità gay e lesbica. Quest'oggi cercheremo di capire meglio com'è la situazione nella Federazione Russa, ma non solo, perché nel mondo ci sono tanti, tanti paesi in cui la vita per i gay e per le lesbiche è molto, molto dura anche dal punto di vista della legge. Prima di tutto però vi faccio ascoltare che cosa vuol dire essere gay oggi in Russia, e me lo ha appena raccontato pochi minuti fa Anastasia Smirnova, che è portavoce dell'associazione Russian LGBT Network. Ascoltiamo insieme la sua voce. Depends heavily on the region where you live in. I live in St. Petersburg. It's quite a big city and it's also a hub of LGBT. Anastasia dice: dipende molto dalla regione in cui vivi. Io vivo a San Pietroburgo, è una città abbastanza grande dove c'è molto attivismo, ci sono molte associazioni e una comunità piuttosto nutrita. Allo stesso tempo, il tema della comunità gay è oggi molto popolare. Se ne parla ovunque nei media, dice Anastasia. C'è una grande attenzione da parte del pubblico generalista verso questi temi. LGBT activism is a hot topic. E oggi dice, mi accorgo che ci sono molti più occhi puntati su di me quando magari passeggio con la mia ragazza per strada e credo che molte persone gay e lesbiche si sentono meno sicure per strada. Anastasia dice anche che c'è una maggiore consapevolezza da parte del russo medio del fatto che i gay ci sono, esistono, che appaiono in un certo modo e che vivono in mezzo a noi. Per questi motivi, dice Anastasia, io credo che la nostra comunità sia più a rischio. Poi lei ho chiesto se abbia mai vissuto episodi diretti di aggressione o di violenza. Lei dice no, insomma, per quanto mi riguarda sono stata fortunata, non sono mai stata vittima di atti violenti. Capita però spesso, dice la portavoce dell'associazione russa, capita spesso magari che le persone ti guardino male o in maniera piuttosto aggressiva per strada o che magari qualcuno ti eviti sui mezzi pubblici. Ho avuto poi un episodio spiacevole in un ristorante, ero seduta a un tavolo con la mia ragazza e ci è stato chiesto di andarcene perché ci stavamo tenendo per mano. Cioè ci hanno proprio detto andatevene o smettete di mostrare platealmente che siete una coppia dello stesso sesso. Cose di questo genere accadono. Allora, per fare chiarezza, partiamo dalla legge, cioè da quello che prescrive questa nuova direttiva firmata da Vladimir Putin ormai un mese e mezzo fa. Per fare luce ci aiuta Giorgio Comai di Osservatorio dei Balcani e Caucaso. Giorgio, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno. Allora, Giorgio Comai, appunto, Osservatorio dei Balcani e Caucaso, esperto del paese in cui viaggia frequentemente. Mettiamo i puntini su lì, cerchiamo di capire meglio che cosa prescrive esattamente, o meglio, che cosa vieta esattamente che questa legge, Giorgio. La legge è indirizzata, mirata a tutelare i minori, quindi vieta nello specifico la propaganda di informazioni, la diffusione di informazioni che possano sollevare interesse su questo tipo di relazioni. Cito la legge stessa, dice vieta la mendace rappresentazione delle relazioni sessuali di tipo tradizionale e non tradizionale, quali socialmente di ugual valore, e via discorrendo. Quindi sollevare interesse su questo tipo di relazioni, far pensare che si tratti di relazioni dello stesso valore, insomma di quelle eterosessuali, ovvi dicendo, può essere insomma punito dalla legge. Intanto alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666. Mi sembra indicativo un messaggio di un ascoltatore anonimo che dice: non mi sembra contro i diritti civili sanzionare chi si bacia in pubblico, se siano due uomini o due donne. Ormai il mondo va al contrario, altra cosa il bullismo. Vabbè, direi meglio non commentare. Giorgio Comai, questa legge... come leggerla? Nel senso, mi sembra di capire dalle tue parole che, come dire, abbia delle pieghe molto molto ampie. Tu fra l'altro hai postato su Osservatorio Balcani e Caucaso un post nel tuo blog che era abbastanza indicativo da questo punto di vista. Sì, il problema appunto è la mancata, la poca precisione nella definizione del tema di cui si va a trattare. Quindi in primo luogo che cos'è una relazione non tradizionale? In Russia questo... forse è chiaro a tutti, però è chiaro che la legge lascia ampio margine interpretativo e soprattutto uno dei problemi principali è quello che così è indirizzata a tutela dei minori, però il problema è che vieta di parlare di questo tipo di questioni in assoluto sui media, parlarne in piazza, perché sia i media che internet, esplicitamente incluso nella legge, o le strade di una città sono posti a cui possono accedere i minori, quindi quando anche alcuni rappresentanti del Parlamento russo commentavano questa legge, dicevano ma certo, ma si possono fare i gay pride, basta farli in un luogo chiuso e non, dove a cui non avranno accesso i minori, insomma. Quindi questi sono naturalmente problemi significativi, sono, è molto problematico anche il fatto che vengono indirizzati esplicitamente i giornali, i giornalisti e chi, i blogger, chi parla in pubblico di questo tipo di questioni, quindi un giornale rischia una grossa multa e addirittura la sospensione delle attività fino a 90 giorni. Chi ne parla, anche se cittadino straniero, rischia una multa fino a oltre 2.000 euro e l'espulsione dal paese, insomma, o addirittura al posto della multa reclusione fino a 15 giorni. Quindi le pene previste sono sostanziali e i casi in cui possono essere applicate non ben definiti e quindi lasciano davvero ampio spazio di discrezionalità. E questo è, diciamo, è uno dei punti più oscuri sui quali il dibattito ovviamente si accende. Se la comunità gay russa piange, altre comunità nel mondo non ridono. In Nigeria 98 persone su 100 ritengono che l'omosessualità non debba essere accettata dalla società. E questo il risultato più lampante del sondaggio condotto dall'americano Pew Research Center su 39 paesi di tutto il mondo. Segue il Senegal con 96 contrari su 100, al pari con Ghana e Uganda. In Asia le cose non vanno meglio, con Pakistan, Indonesia e Malesia agli ultimi posti. L'Europa oscilla invece tra le tolleranti Spagna e Germania e l'intransigente Russia, dove solo 16 persone su 100 ritengono che ai gay debbano essere riconosciuti pari diritti. Lo studio rivela anche come l'omosessualità sia rifiutata nei paesi più poveri e dove la religione ha un ruolo fondamentale nella vita della comunità. Fanno eccezione i credenti brasiliani e filippini, che risultano di gran lunga più tolleranti rispetto alle meno osservanti Russia e Cina. In molte nazioni l'accettazione dei gay cambia a seconda della fascia d'età. In Italia l'86% degli intervistati tra i 18 e i 29 anni si dichiara a favore, percentuale che scende di ben 19 punti se ad essere intervistati sono gli over 50. Lo stesso vale per Grecia e Repubblica Ceca. Per quanto riguarda invece le leggi contro l'omosessualità, l'intollerante Africa prevede un reato di aggravata omosessualità in Uganda, dove addirittura si è discusso dell'introduzione della pena di morte, il divieto di promuovere relazioni sessuali in Liberia e fino a 10 anni di prigione per chiunque sia testimone o aiuti matrimoni omosessuali tra nigeriani. Il Malawi sembra fare un passo avanti promettendo di rivedere i 14 anni di prigione previsti per chi fosse scoperto in relazioni omosessuali, ma ad oggi il governo non ha ancora fatto nulla. E questa è la fatica di Sisifo che le comunità gay e lesbiche nel mondo devono ancora compiere, un po' perché in alcuni paesi l'impianto legislativo li punisce severamente, un po' perché questo dossier rimane una leva politica formidabile, basta andare a vedere le ultime anche tornate elettorali africane, penso all'Uganda, penso allo Zimbabwe, dove è stata indetta una vera e propria caccia al gay. I'm standing, observing, cruising. E fra i tanti artisti che stanno prendendo posizione freschi dopo che la polemica, il dossier russo si sta scaldando, gli Auto Heart che lanciano questo brano che tenta di combattere, appunto, che punta il dito su questa legge anti-gay. Altri sms al 349-238-6666 del tipo: non mi interessano i problemi dei gay, figuriamoci di quelli russi. Un altro: non sono a favore dei diritti dei gay, sono a favore di ampliare il senza distinzione di sesso, aggiungendo e di comportamento sessuale, tra virgolette, senza distinzione di sesso e di comportamento sessuale, così Alberto Treviso. Ma perché ci occupiamo di questo dossier russo? Perché ci occupiamo dei gay? Ma perché nel momento in cui la legge, una legge dello Stato, va a disciplinare questa materia, allora contravvenendo a quello che è l'uguaglianza dei diritti. Allora possiamo andare pure in Uganda, possiamo andare pure in Zimbabwe, possiamo andare in Ghana, dove rischi il carcere. Io ricordo che in Uganda fino a qualche mese fa si parlava della pena di morte per relazioni omosessuali. Allora non capisco francamente, non è che sto censurando gli SMS, come scrive un ascoltatore, che voglio gli SMS che voglio io, no, ben venga il dibattito assolutamente, ma se ne parla per questo, perché nel momento in cui la legge va a disciplinare un comportamento sessuale, va a ledere i diritti di uguaglianza, i diritti civili, c'è un problema, perché dalla prigione io passo alla pena di morte in un attimo. Ecco perché ci occupiamo oggi del stato dell'arte del mondo della comunità gay e lesbica in Russia. Tempo scaduto per questa sera, gentili ascoltatori, grazie per essere stati con noi. Abbiamo ripercorso i temi più caldi che abbiamo affrontato nel corso della settimana appena trascorsa. Allora non mi resta che ringraziare voi appunto per essere stati all'ascolto. Isotta Scenna, Mirel Lucchetti, che hanno confezionato con me anche questa versione del weekend. Valeria Bernardi in regia. Vi lascio ricordandovi le nostre coordinate. Siamo su Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, su Twitter, Nessun Luogo 24. L'appuntamento con altre storie che vengono fuori dai confini italiani è per lunedì, ore 13:15. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.